Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e bentornati all'ascolto. Allora, vi ricordo che c'è una novità da alcuni giorni: il nuovo sito di Radio 24, www.radio24.it. Troverete le nostre belle faccine, ovviamente lo dico per dire. Sotto ciascuno di noi o al lato di ciascuno di noi ci sarà il programma che conduce. Nella casella adesso dedicato troverete un triangolino rosso, potrete scaricare non soltanto la puntata del giorno, ma potete tranquillamente ascoltare tutte le altre puntate di tutti i programmi che desiderate via podcast. Ci sarà un motore di ricerca che vi agevolerà anche nel cercare argomenti che vi piacerebbe ascoltare, di cui vi piacerebbe sapere. Laddove ci sarà il mio il richiamo alla mia trasmissione, troverete che ci sarà anche il richiamo al mio blog Guardie o Ladri, oramai lo conoscete, lo trovate in questo modo andando su un motore di ricerca oppure prendo la prima pagina del Sole 24 Ore online, laddove c'è il mio blog. Vi ricordo un'ultima informazione di servizio: è la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Ricorderete che poco prima delle vacanze, delle festività natalizie, noi abbiamo affrontato il caso di una scuola a Napoli che, secondo la denuncia che fece un nostro radioascoltatore Domenico Cuoco, era regolarmente allagata. Comunque c'era un problema enorme di viabilità, tanto quanto quando pioveva, tanto nell'affrontare tutti quelli che sono gli allarmi, le precauzioni che dovrebbero esserci, le attenzioni intorno ad una scuola, dove ci sono dei bambini che entrano ed escono in continuazione. Domenico Cuoco, il nostro radioascoltatore, denunciò con vigore e forza questa cosa, fino a proclamare, come dire, un'accusa abbastanza pesante, di cui ora ascolteremo uno stralcio. Ho parlato con il signor Crosio, che è il vicepresidente della quinta municipalità. Purtroppo ho spiegato tutto a lui, ho fatto vedere tutti i video con il cellulare, e a oggi non ha preso nessuna iniziativa. Anzi, una cosa molto triste, dico questo perché sono veramente deluso, quando lui apre il cassetto e dice: vuole sapere da me perché il sindaco aveva scritto. Io gli dico: guarda, i problemi erano questi, cioè è successo questo, quindi cerchiamo di trovare qualcosa per evitare queste grosse problematiche. Certo. Quando lui mi fa: se non mi avesse scritto il sindaco, questa sua email sarebbe stata cestinata. Allora, avete sentito la denuncia del nostro radioascoltatore Cuoco, che chiama pesantemente in causa, per tutti i servizi che ci sono di viabilità in quella zona e per la scuola allagata, il vicepresidente della municipalità. Io dissi che non potevamo proseguire oltre con questo tipo di accuse perché non era presente appunto Crosio. Oggi, per dovere e piacere, ovviamente abbiamo collegato con noi proprio il vicepresidente della municipalità 5 Arenella Vomero, dottor Giuseppe Crosio. Buongiorno Crosio. Buongiorno dottor Galullo. E abbiamo anche il nostro radioascoltatore Domenico Cuoco. Buongiorno Cuoco. Buongiorno. Allora Cuoco, io partirei proprio da lei, cioè conferma le sue accuse, che sostanzialmente si estrinsecano in questo: lei fece vedere i filmati della scuola allagata quando pioveva, tutti i disturbi che c'erano, le difficoltà per i bambini, e conferma il fatto che Crosio le disse: guardi, se non era perché mi ha scritto il sindaco, a me francamente me ne sarebbe fregato poco meno di niente della sua denuncia. Io ovviamente volgarizzo, per paradossi, in maniera tale che ci capiamo. Allora Cuoco, a lei la parola. Allora, sono 3 anni ad oggi, praticamente non è successo ancora nulla. Cioè, è successo in che senso? Non sono stati messi le cunette per far rallentare i camion pesanti che vanno oltre 35 quintali, gli scooter, che purtroppo a Napoli sono i padroni delle strade e corrono maledettamente, e poi per far rallentare le auto, perché c'è un grosso problema che questi bambini, comprese le mamme, per arrivare alle proprie auto devono fare veramente tanta attenzione. No, questo qui l'abbiamo spiegato bene, lei lo ha già detto e lo conferma, ma quello che io le chiedevo è vero che il suo rapporto con Crosio è stato così tormentato che, se non fosse stato per l'intervento del sindaco, probabilmente nessuno si sarebbe interessato alle sue denunce. Lo conferma o meno questo? Allora, io sicuramente voglio chiedere scusa al signor Crosio, perché sicuramente ho sbagliato il nome, perché un'altra persona ha un nome similare. Chiedo scusa al signor Crosio, veramente, perché ho sbagliato la persona che ha detto questa cosa. Ecco, però rimane, rimane la sua denuncia, ma non era... Perché mi dispiace moltissimo. Va bene, allora è chiarito l'episodio. Allora, lei la sua denuncia rimane, i filmati li ha fatti vedere, rimane la denuncia nei confronti delle inefficienze dell'amministrazione, però a questo punto noi sentiamo Crosio, ingiustamente chiamato in causa, quanto dice lo stesso Cuoco, però chi meglio di Crosio, che è vicepresidente di questa municipalità, può raccontarci che cosa si sta facendo per rendere più sicura una strada nella quale ci sono, vanno e vengono bambini e insegnanti e genitori? Prego Crosio, lei la parola. Galullo, grazie innanzitutto a Radio 24 che mi dà l'opportunità di, come dire, di raccontare i fatti. Beh, certo, essere chiamati in causa in maniera diciamo così grave, beh, non è piacevole, soprattutto per il lavoro che periodicamente io vado a svolgere su questo territorio. Io sono il vicepresidente di una municipalità di cui con 120.000 abitanti per una dimensione di 7 chilometri quadrati. Sono quindi una media scuola, città, una media città, diciamo. Perfetto, con sono responsabile dell'edilizia scolastica e dei progetti educativi di 29 plessi scolastici alle scuole elementari e alle scuole medie. Il 13° circolo didattico è una di queste scuole. Quello che non ho capito è anche il video che il signor Cuoco ha mandato, cosa vuol dire vogliono rappresentare. Mi sembra che ci stiamo soffermando su delle questioni veramente di lana caprina. Poi quel filmato che il signor Cuoco ha mandato a lei, ha mandato anche a me, rappresentano veramente un grande senso di inciviltà. Tutte quelle auto fermate in doppia fila e in divieto di sosta sono i genitori che vanno a prendere i bambini a scuola. Allora capiamoci qual è, voglio dire, come vanno affrontati i problemi. Certo. E volevo cortesemente ritornare un attimo veramente nella storia. La scuola si trova in una strada che mette in un collegamento un quartiere residenziale, la collina dei Camaldoli, alla City e la città. È una scuola che è una strada che alcuni anni fa era poco più di un viottolo di campagna ed era stato fortunatamente allargato per consentire anche lo smaltimento del traffico appunto da questi due importanti quartieri. Su questa scuola, alla fine di questa strada, insiste questa scuola e parliamo di una strada che è resa praticamente impermeabile da molte costruzioni spontanee, oserei dire, una strada con una notevole pendenza che è facile immaginare che nei momenti di pioggia copiosa in questi ultimi anni riversano a valle una enorme quantità di acqua. Ecco, ma sui problemi, Crosio, mi pare di capire che siete d'accordo sia lei che il radioascoltatore, quindi verosimilmente anche i cittadini di quell'area, ma veniamo a capire che cosa state facendo per rendere più sicura l'area. Ad esempio Cuoco ci ricordava dell'assenza, o meno, ce lo dica lei gentilmente, di cunette che dovrebbero servire per rallentare anche la corsa delle auto. Prego. Allora, interventi per quanto riguarda la sicurezza e la viabilità sono stati messi in pratica. Quello che chiede esplicitamente il signor Cuoco deve fare i conti con la legge e con la regolamentazione dell'ufficio viabilità del Comune di Napoli. Lì dove è necessario mettere le cunette sono zone dove non sono frequentati, non sono presenti civili abitazioni, perché la presenza delle cunette, lei si immagina di notte cosa accade, delle macchine che attraversano queste cunette, il fastidio dei cittadini che abitano nei pressi di quella strada, di quella viuzza, cosa mai voglio immaginare cosa possa accadere. Tecnicamente i dossi vengono sistemati con una temperatura al suolo diversa da quella attuale, deve essere un po' più alta, quindi ci troviamo di fronte alle difficoltà tecniche. Però negli ultimi tempi la strada è stata dotata di una segnaletica verticale dove si segnala abbondantemente la presenza, attenzione, quel famoso attenzione bambini, presenza in prossimità di una scuola. Benissimo, io sono costretto ad interromperla, caro Crosio, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Mi fa piacere sapere che la Municipalità 5 di Napoli è impegnata comunque per risolvere i problemi, mi fa piacere sapere che c'è un'attenzione così viva da parte della vostra cittadinanza, come testimonia la segnalazione di Cuoco, che ringrazio ancora. Grazie in regia Pietro Lacorte, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.